GR Sport. Buongiorno da Dario Ricci. È tutto nel segno della Ferrari, il Gran Premio del Bahrain, terza prova del Mondiale di Formula 1. Sul circuito di Shakir trionfa Massa davanti a Raikkonen, terzo il polacco Kubica su BMW. Sentiamo proprio Massa. Un weekend fantastico. Dopo un inizio difficile è arrivato il sole, quindi è una gara direi fantastica ma tranquilla, pensando sempre in aumentare e diminuire il ritmo da quello che faceva Kimi e non spingere la macchina completamente al massimo, anche per portarla a casa senza nessun problema. Per il calcio, nella 32esima di A, l'Inter batte l'Atalanta e si riporta più 4 in classifica sulla Roma. Per la capolista, reti di Vieira e Balotelli. Mancini a Sky Sport. Sono stati così bravi veramente da concedere poco all'Atalanta, anche difendere bene quando si era da difendere. Patrick ha fatto un gol molto importante. Ma Balotelli è un ragazzo giovane che ha grandi qualità, essendo così giovane è anche spensierato, quindi quando si è così si va in campo, non si pensa che partita si gioca, si va e ci si diverte. E lui l'ha fatto, insomma, l'ha fatto anche bene. L'impresa è del Palermo che nel posticipo supera 3-2 la Juventus. Doppiette di Amauri e Del Piero, poi decide Cassani nel finale. La gioia del centravanti palermitano. Mancava il pizzico di fortuna e oggi ci è arrivata. Avevamo bisogno di vincere, abbiamo fatto questi 3 punti, è da tempo che cerchiamo e niente, sono contento di aver fatto questi primi 2 gol alla Juve, che non avevo mai segnato contro la Juve. Nella corsa alla Champions, bene la Fiorentina che supera 2-0 la Regina e a Prandelli tocca frenare l'entusiasmo dei Viola. Tante volte ti fai prendere un po' dalla voglia di strafare, dalla voglia di andare, dalla voglia di attaccare a profondità con più giocatori, e quindi ho detto di usare la testa, perché se usiamo solo l'esuberanza e la voglia, tutte le volte prendono la palla gli avversari ci possono castigare. Corre anche la Sampdoria, 2-0 a Livorno. Rallenta l'Udinese, fermata sull'1-1 a Siena. 2-2 tra Parma e Lazio. L'Empoli di Cagni vince 1-0 a Torino. Il Catania di Zenga travolge 3-0 il Napoli. Un allenatore che arriva, secondo me, dopo 4 giorni, non è che può inventarsi nulla. I ragazzi sono stati bravissimi, hanno fatto una partita spettacolare. Noi abbiamo solo fatto il primo passo, adesso ci aspettano altre 6 partite difficilissime, incredibili. Per il basket va alla capolista Siena il big match della 13esima di ritorno contro Roma. Vittoria anche per Avellino, Varese, Milano, Cantù, Capodorlando, Treviso, Udine e Teramo. Per la pallavolo da applausi l'impresa tra le donne della Colussi Perugia che batte 3-1 le russe dello Zarechi Odinsovo in finale e conquista la Champions League. Tra gli uomini Trento vince la stagione regolare, Corigliano e Latina retrocedono in A2. Da mercoledì il via ai playoff, le sfide Trento-Modena, Roma-Macerata, Cuneo-Montichiari e Treviso-Piacenza. Spazio al ciclismo, è il belga De Volder a conquistare il Giro delle Fiandre, seconda grande classica stagionale. De Volder ha preceduto di 14 secondi il connazionale Nuyens e lo spagnolo Flecha, quarto l'azzurro Ballan, vincitore nel 2007. Per il mondiale di Superbike a Valencia vittorie per Lanzi e Daga nella terza tappa del mondiale, Max Biaggi 16° e 8° nelle 2 manche. Chiudiamo con la ginnastica, 2 medaglie azzurre agli europei di Clermont-Ferrand in Francia, Carlotta Giovannini e Francesca Benolli hanno conquistato rispettivamente argento e bronzo nel volteggio. Quinta Vanessa Ferrari nella finale della trave. Vi ricordo l'appuntamento con A Tempo di Sport alle 14. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.